quanto è importante che i nostri ragazzi conoscano i rudimenti e capiscano quello che gli succede intorno per quanto riguarda l'economia e la finanza? Beh, direi che se c'è stato un momento in cui l'economia è veramente importante per la vita non solo dei ragazzi ma dei genitori, di tutti, è questo il momento, perché stiamo attraversando una crisi che è la più brutta dal dopoguerra e quindi è la più brutta dai tempi dei vostri genitori e anche da parte dei tempi dei vostri nonni. Quindi abbiamo una situazione in cui tante forze che sono al di sopra, passano sopra le nostre teste, stanno cambiando il nostro futuro e dobbiamo dire perché, e per questo è necessaria l'economia. Secondo te la scuola fa abbastanza per spiegare l'economia ai nostri studenti? Certamente no, non si vede perché agli studenti debba essere giustamente richiesto di studiare l'italiano, la storia, la geografia, la matematica, la filosofia, e non nell'economia, che è una disciplina essenziale, perché l'economia riguarda la vita di tutti, riguarda la possibilità di trovare lavoro, riguarda quello che succede ai nostri risparmi, ai nostri redditi, ai nostri investimenti, e quindi è importante che l'economia sia studiata nelle scuole fin dalla scuola media inferiore, è una parte essenziale dell'educazione del cittadino.